Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con Nicoletta Poidimani che insieme alle donne in cantiere ha organizzato, le donne in cantiere del cantiere sociale Versiliese, ha organizzato i puntini sulle A, un ciclo di incontri di autoformazione femminista che si svolgeranno a Viareggio da febbraio a giugno. Tra l'altro parteciperemo anche noi come coordinamento femminista e lesbica. Siccome gli incontri sono tanti e diversi, vorremmo che ciao Nicoletta ci raccontassi da che cosa è nato questo progetto di autoformazione, cosa si propone, quali saranno gli incontri e anche la ragione del titolo, i puntini sulla A, perché ci è piaciuto in maniera particolare. Quindi ti salutiamo e ti passo la parola. Va bene, grazie, ciao a tutte e dico solo a tutte, visto che stiamo parlando di un ciclo di incontri separati, riservati alle donne, quindi ovviamente anche questa mia comunicazione è rivolta alle donne. Diciamo, le ragioni di questa iniziativa stanno in una riflessione che io sto portando avanti da tempo. Anche, diciamo così, stimolata da una serie di cose che sento dire da donne di età veramente svariate, quindi che vanno dai 20-25 anni anche ai 60 e passa, dove ho verificato nel tempo una incredibile confusione che si è creata rispetto alla storia del movimento delle donne in Italia, in particolare una confusione sia sui termini che sulle pratiche. Per capirci, oggi tira molto il termine transfemminista. Giovani donne parlano di transfemminismo, ma non sanno cosa sia e cosa sia stato il femminismo. E di fondo non gli interessa neanche saperlo perché gli viene presentato un pacchetto all inclusive e va bene così. E sono poi donne in cui magari ti accorgi, manca la consapevolezza, cioè mancano proprio quei passaggi che sono stati il sudore ma anche la gioia degli albori del movimento delle donne in Italia e che hanno fatto mettere in gioco tutte veramente a partire da sé. E allora ecco che secondo me bisogna un po' riprendere in mano le questioni. Anche perché secondo me non è casuale questa cancellazione di pratiche collettive, nel senso che ricordiamo la tematica del contrattacco patriarcale dopo la forte ondata del femminismo a livello internazionale tra gli anni 60 e gli anni 80, ecco, mi sembra che qui il contrattacco continui, ma portato avanti anche da certe aree, diciamo, molto istituzionalizzate o che ambiscono ad essere Eh sì. riconosciute dalle istituzioni in ambito femminista. E allora ecco, questo contrattacco ha bisogno, secondo me, di una risposta che riporti la verità e il rispetto e la continuità sulla nostra storia come donne, come compagne, come femministe e che rompa con quelle scissioni che si sono venute a creare proprio in conseguenza del contrattacco nel quotidiano di tante donne, per cui direi delle frasi fatte, quasi delle formule magiche e poi però vivere un quotidiano misero, quindi delle frasi che sembrano voler spaccare il mondo e però poi nella quotidianità ci si ritrova con una vita misera. Ecco, allora secondo me era importante un po' ripartire dalla A mettendo sopra i puntini, come si usa dire, no? I puntini sulle I, ecco, trattandosi di questioni femministe, suonava bene questo titolo, i puntini sulle A, che tra l'altro sta riscuotendo tantissimo grandissimo successo, perché evidentemente non ha neanche bisogno di essere spiegato, è immediato. Anche a noi è piaciuto tanto, infatti, è proprio immediato, ecco. E ci ha parlato subito. Esatto, infatti ha questa caratteristica ed è quello che vorrebbero anche essere questi incontri. Infatti, nella breve spiegazione che abbiamo messo nella locandina, so che l'avete pubblicata anche nel vostro blog, sì, si dice proprio che a noi non interessa avere a che fare con le esperte. Detto da me, che peraltro vengo spesso chiamata dalle accademie in altre situazioni come esperta sulle tematiche di genere, no? Ma io ho sempre rifiutato proprio questa definizione di esperta, perché l'esperta oggi non è più come etimologicamente dovrebbe essere chi ha l'esperienza, chi ha fatto l'esperienza o chi la sta facendo, ma invece quindi chi esperisce, ma l'esperta invece è quella che accademicamente ha fatto un corso di studi che può essere lontano anni luce dalla propria vita, ma appunto parla delle cose in maniera astratta. Ecco, noi non vogliamo questo, e purtroppo in questo contrattacco è stato invece molto utilizzato anche questo ruolo delle esperte, come a togliere la parola a ciascuna donna. Il movimento delle donne nasce nel momento in cui le donne incominciano a prendere parola su di sé, la prima e l'ultima parola. Togliere la parola alle donne facendo parlare per loro le esperte diventa qualcosa di immiserente per le singole individue. E quindi ecco, già diciamo nella costruzione di questi incontri si vuole smantellare questa pratica che è andata diciamo rafforzandosi, legittimandosi negli ultimi anni, direi anche decenni, per dirla proprio pari pari, da Usciamo dal silenzio in poi, perché poi vanno nominate le questioni. E, venendo agli incontri, ovviamente non sono esaustivi, perché le idee erano tantissime, le tematiche sarebbero tantissime, insomma diciamo che è un inizio questo, però quello che si è voluto fare è cercare di toccare proprio quelle tematiche che oggi sono assolutamente fonte di confusione o addirittura che vengono mistificate. E allora vediamo che ad esempio il mese di febbraio, che inizierà proprio sabato, 1 febbraio, con l'incontro con Daniela Pellegrini su autocoscienza e separatismo, sarà il mese basilare, cioè all'incontro con la storia che continua. Che cosa intendo dire? Appunto, il 1 febbraio ci sarà Daniela Pellegrini, che dal 1965, quindi da tempi non sospetti, pratica l'autocoscienza e il separatismo. Daniela ha fondato il primo gruppo di donne non istituzionale in Italia, il famoso DEMAU. E quindi Daniela avrà tanto da raccontare, anche perché oggi ancora Daniela mette in piedi e porta avanti dei gruppi di autocoscienza con altre donne. Quindi mi sembra importantissima la sua storia e la sua esperienza. Il secondo incontro, poi, il 15 febbraio, sarà con voi, e su questo quindi vi racconterete un po' voi, però io posso dire perché siete state messe in quel momento, perché voi siete un piccolo gruppo che porta avanti la pratica del piccolo gruppo tipica del movimento delle donne dalle sue origini, quindi non i carrozzoni su cui siamo tutte sorelle e poi ci scanniamo, ma il piccolo gruppo come garanzia di vicinanza, di solidarietà e di tutta una serie di questioni di cui voi stesse avete scritto molto bene, anche se non ricordo male, in occasione dell'ultimo 25 novembre, sì, e quindi sì, ragionare su perché ancora oggi siano importanti i piccoli gruppi. Peraltro è interessante notare che la creazione di grandi carrozzoni in qualche modo ha portato come conseguenza la scomparsa dei piccoli gruppi. Certo. Ora ci si pone un interrogativo su chi sia dietro, se ci sia qualcuno dietro questo contrattacco. Ora non mi interessa essere un complottista, però un disegno politico sicuramente c'è. Il terzo incontro di febbraio sarà il 29, quindi apriamo e chiudiamo febbraio con questo, diciamo, questo sguardo sugli elementi basilari del movimento delle donne di ieri e di oggi. Interverranno due compagne di Milano, una della consultoria autogestita e una bravissima ostetrica dell'Usi Sanità sull'autogestione della salute, perché appunto negli anni 60 e 70 le donne si facevano l'autovisita, avevano una consapevolezza del proprio corpo, della propria sessualità, eccetera. Oggi le donne delegano ai medici, delegano agli psicologi, delegano il proprio star bene sempre a qualcun altro. E le donne giovani si conoscono anche poco, non solo dal punto di vista della sessualità, rispetto alla quale ci sono situazioni abbastanza tragiche, per cui non avere ancora chiaro quale sia il proprio piacere e in una relazione eterosessuale quale sia il piacere del maschio, no? Questa discontinuità tra i due piaceri, ma anche proprio rispetto a sé in caso di malattia, come comportarsi, come sentire ciò che il nostro corpo ci dice, eccetera. Quindi insomma, diciamo che questi tre aspetti, l'autocoscienza e le pratiche separate, naturalmente sono il filo rosso che attraversa tutte queste questioni, però l'autocoscienza, i piccoli gruppi e l'autogestione e autodeterminazione della salute, appunto, non potevano che essere gli interventi di apertura. Poi avremo altri due incontri in marzo, uno con Nerina Milletti, cara amica che io, come le dico sempre ridendo, è una storica lesbica e una lesbica storica, è entrambe le cose, e Nerina ci parlerà del lesbismo come pratica politica, cioè l'impatto che il lesbismo ha avuto nel movimento delle donne, aprendo delle grossissime contraddizioni comunque, negli anni 70 in particolare, ma anche come il lesbismo abbia fatto sì che una pratica come l'omosessualità femminile diventasse una pratica politica, perché l'omosessualità femminile non è una pratica politica. Quindi che cosa significa questo? E mi sembra estremamente importante un intervento come quello di Nerina, perché oggi con questo queer, che è un minestrone che contiene tutto e niente, tutto il suo opposto, anche l'essere lesbica sembra perdere proprio la sua forza politica e sembra semplicemente l'enunciazione di una pratica sessuale, ma così non è, così lo è per il potere, non per le donne e le lesbiche e le femministe che hanno fatto la storia del movimento delle donne. Quindi abbiamo chiesto a Nerina appunto di chiarire questi punti e ci confronteremo su questo. Il 28 marzo poi interverranno le curatrici del bellissimo libro che tutti abbiamo letto e straletto, Rote Zora, Guerriglia Urbana Femminista. Non solo si tratterà di una presentazione del libro con laboratorio, ma ho chiesto appunto al collettivo di traduttrici, di curatrici, di spiegare un po' la loro esperienza di costruzione di una relazione con un gruppo, con le Rote Zora, attraverso quelli che sono i loro scritti, perché loro hanno fatto un lavoro di traduzione che era un lavoro di relazione, ed è quella che è la forza di quel libro. C'è anche la parte introduttiva dove viene fatto il quadro storico e politico in cui si inseriscono le Rote Zora, un elemento politico relazionale molto forte, cioè non ti prendo come come manifestazione di qualcosa, ma ti inserisco in un contesto. Entro in relazione con quel contesto ed entro in relazione con le tue pratiche, pratiche che continuano a farci interrogare. Poi in aprile interverremo io e Silvia Baraldini, io ovviamente sul post-vittimismo e l'autodifesa, io intendo andare avanti come un mulo su questa questione importantissima, perché vedo che ancora oggi vittimizzare è il modo in qualche modo per vittimizzarsi è il modo per autorizzarsi la parola, no? Io certo. Sono una povera donna oppressa, quindi siccome sono l'emblema della sfiga ho qualcosa da dire. Non partiamo così, partiamo da una prospettiva post-vittimistica. Certo. No? Partiamo da quello che abbiamo da dire e da come vogliamo trasformare le cose. Poi è ovvio che partiamo tutte dai nostri vissuti e dalle nostre oppressioni, però sembra che si sia autorizzati a parlare solo in quanto vittime. Certo. Tra l'altro, a questo proposito, leggevo proprio ieri su un giornale online, divago un momento, ma talmente fatta arrabbiare questa cosa che mi sembra importante dirla, una donna che è stata assolta per legittima difesa dopo aver ucciso il suo marito o compagno, non mi ricordo più chi, però sta donna prima di questa assoluzione si è fatta un bel po' di galera con l'accusa invece di omicidio, e addirittura la galera gliel'hanno fatta fare dura perché siccome aveva ucciso il marito era ritenuta socialmente pericolosa, aveva ucciso il marito violento, lei era la socialmente pericolosa. Pensa un po'. Sì. Il rovesciamento, no? Il contrattacco opera questi rovesciamenti, e il mio discorso sul post-vittimismo vuole, come dire, rimettere le questioni sui loro piedi. Perché se no non riusciamo ad uscire proprio da questa continua poi richiesta di leggi, di aiuto, di tutela, che ormai debordano veramente dalla rete. Poi mi interessa anche proporre al contempo una visione più ampia dell'autodifesa, perché purtroppo spesso si tende ad interpretare l'autodifesa femminista come dire, riducendola a delle tecniche, a delle pratiche di autodifesa, a delle vere e proprie tecniche. In realtà, come ho scritto anche nell'ultimo numero di Zapruder, l'autodifesa femminista è qualcosa di molto più ampio, anzi necessita di una visione più ampia, se no rimane autodifesa, ma non è femminista. E quindi questa è insomma, la ragione per cui sembrava importante intervenire. Dopo di me ci sarà Silvia Baraldini che interverrà su intersezionalità e sorellanza, anche questi due termini cercheremo quindi di rimetterli sui loro piedi, perché l'intersezionalità è diventata una formula magica che serve solo a coprire le contraddizioni, in qualche modo oscurando i confini e negandoli, ma i confini poi rimangono, e la sorellanza anche è diventata una formula magica, per cui si assiste ancora a un approccio di tipo assistenzialista nei confronti dell'altra. Con quella che è la storia e l'esperienza di Silvia Baraldini sarà interessante misurarsi proprio per andare ad attingere a delle relazioni autentiche di complicità tra donne bianche e donne nere. Donne nere, tra l'altro, che stavano all'interno di un percorso separato dal punto di vista del colore, chiamiamolo così, no? Quindi anche interessante il separatismo, il doppio separatismo, insomma di questioni in ballo ce ne sono tante. Avremo poi degli altri incontri a maggio e giugno che ancora non abbiamo messo in calendario, perché stiamo aspettando la risposta da una compagna che viene dall'estero e ci deve dare la conferma che venga. Comunque in ogni caso diciamo che gli incontri di maggio e giugno saranno incentrati in particolare sui femminismi, su altri femminismi. nel senso che c'è all'interno del femminismo oggi ancora una forte dose di suprematismo, lo vediamo negli approcci, il suprematismo è superato solo di facciata, ma siamo ancora quelle che Nirma Alpuar definiva le imperial ladies molto spesso, no? Che addirittura vanno a legittimare le pratiche del patriarcato occidentale attraverso le agenzie quali l'ONU, eccetera, nei paesi impoveriti, e proprio con il benestare delle femministe occidentali, borghesi, bianche, di classe media, eccetera. Ecco, allora incominciamo anche a mettere in discussione questo, no? Il fatto che le prospettive siano differenti e che i saperi siano situati. Non esiste un sapere con la S maiuscola e non esistono delle pratiche con la P maiuscola. E allora interverrà Arifa Hashmi parlandoci del femminismo in Pakistan, in particolare perché lei è pakistana, mettendo un accento particolare, questo è estremamente interessante, sulla connotazione di classe di quel femminismo. Cioè in Pakistan noi non ne sappiamo nulla, perché figuriamoci, il Pakistan, del Pakistan ne sentiamo parlare solo quando c'è un attentato a Karachi piuttosto che in altre città, no? Ma in realtà è pieno di gruppi femministi il Pakistan, che fanno tantissimi lavori anche differenti, e però noi non ne sappiamo nulla. Allora ecco che relazionarci, ma capire anche la connotazione di classe, quanto conta e soprattutto come conta, è estremamente interessante, anche perché l'incontro successivo sarà con una compagna che viene a parlarci invece di femminismo comunitario. È una compagna di un'associazione di Torino, forse non verrà da sola, adesso stiamo ancora cercando di capire, lei sicuramente comunque ci sarà. Il femminismo comunitario è il femminismo, diciamo, di base delle donne indigene in America Latina, in alcune zone dell'America Latina. Quindi anche qui la connotazione di classe è estremamente interessante da analizzare, perché se in un paese come il Pakistan abbiamo la donna che ha avuto accesso all'istruzione, che in qualche modo poi mette in discussione lo stato di cose esistente da una prospettiva femminista, vediamo che invece nel femminismo comunitario si parla proprio di pratiche di donne che noi qui considereremmo neanche proletarie, perché spesso sono donne non lavoratrici ma che si occupano della sussistenza della comunità. E quindi insomma è interessante andare a vedere quali altre e quante altre prospettive ci siano in giro per il mondo, perché ad oggi per esempio c'è stato in qualche modo spacciato che a livello internazionale planetario Non Una di Meno sia dominante, ma Non Una di Meno nasce sì in Argentina, ma dalla borghesia, dalle donne bianche borghesi e di classe media appunto argentine, no? C'è un famoso testo delle compagne zapatiste che io cito proprio nel mio intervento in Zapruder sull'autodifesa, in cui le zapatiste mettono in discussione proprio lo sciopero delle donne l'8 marzo, dicendo sì, ma da che classe sociale ci viene questa richiesta? Dalle donne appunto che pensano che il lavoro è, e veniamo cancellate completamente noi che invece ci occupiamo della sussistenza della comunità, eccetera. Quindi appunto ciò che è stato spacciato per sguardo internazionale è stato uno sguardo sul femminismo borghese transnazionale, è una cosa un pochino diversa, e allora anche su questo rimettiamo i puntini sulle A. E ecco, questa diciamo il terzo appuntamento, che appunto deve essere ancora definito, stiamo aspettando la conferma, sarà con il terzo appuntamento tra maggio e giugno, sarà con Silvia Federici, questa compagna che sta all'estero, che dovrebbe essere in Italia in quei giorni, però sta vedendo come riuscire a incastrare e se riesce ad incastrare insomma una puntatina da noi, perché da lei ci interessava un quadro sull'asservimento delle donne e sulle relative pratiche di resistenza messe in atto all'interno del sistema capitalistico dagli esordi di questo sistema, di questo modo di produzione, fino al presente neoliberista, cioè come il nodo produzione-riproduzione si presenti e si ripresenti. Ecco, questa diciamo è una prima parte. È importante avere chiaro rispetto a questo discorso sul modo di produzione capitalistico anche la questione del lavoro delle donne. Lavoro, lavoro di cura, insomma, sono tante questioni che magari non riusciremo ad affrontare tutte in una volta, ma perlomeno incominciamo ad aprirle, più che altro per non dare per scontate le risposte, perché non sono assolutamente scontate. E quindi ecco, se riusciamo a fare questo tipo di messa a fuoco, sicuramente insomma questo ciclo di incontri avrà avuto il suo senso, anche perché io ho parlato di queste donne, di queste compagne femministe che verranno a portarci la loro esperienza, ma in realtà l'incontro è strutturato in questa maniera. C'è una prima parte in cui la donna che porta l'esperienza parla e poi è circolare la questione, cioè la discussione è circolare, ci si mette tutte in gioco, quindi ecco dove si rompe con la logica delle esperte. Certo. Chi porta l'esperienza la condivide, non è che la insegna, non sta formando, non sta né formando né informando, ma sta condividendo con delle altre donne l'autoformazione, sicuramente anche la propria, perché dare degli stimoli e sentire il feedback, che può essere anche inaspettato, sicuramente un'occasione di formazione per la formatrice, chiamiamola così, ridendo, stessa. Certo. E questo per me è estremamente importante, cioè ristabilire una circolarità e rompere con le gerarchie che dal pensiero della differenza in poi si sono andate di nuovo instaurando tra le donne, quindi dalla metà degli anni 80 in poi. Quindi, se posso aggiungere un'ultima cosa, certo, una nota di colore, visto che gli incontri si terranno al cantiere sociale versiliese, perché li ho organizzati in collaborazione con le donne in cantiere, che sono il gruppo di donne che sta all'interno di questo spazio, che è poi una scuola che un tempo era data in affitto, poi l'affitto non è stato rinnovato e ora è occupata, appunto a Viareggio, ma a Viareggio nota città del carnevale, e sabato comincia anche il carnevale viareggino. Ora, questa coincidenza, a cui assolutamente noi non avevamo pensato quando abbiamo fatto il calendario, mi faceva venire in mente Luciano Parinetto, no? Che è stato per me un maestro, soprattutto dal punto di vista filosofico. E Parinetto, che è stato un grande studioso della caccia alle streghe, la persecuzione della diversità, eccetera, ha sempre sottolineato la radicale differenza tra sabba e carnevale, sottolineando come il carnevale fosse una festa octroyée dal potere, cioè concessa dall'alto, concessa dal potere, e in qualche modo una valvola di sfogo per un giorno che non avrebbe toccato però lo stato di cose presente. E Parinetto citava sempre Marx del 18 Brumaio, dicendo: quando per un giorno il servo diventa padrone, la brutalità regna sovrana. Ecco, io credo che certo femminismo istituzionale sia proprio in qualche modo carnascialesco, nel senso che sia un apparente rovesciamento di ruoli, ma appunto per una donna che entra, acquisisce un ruolo di potere, quante sono le donne che quotidianamente vengono ammazzate dagli uomini nel mondo, no? E queste cifre non cambiano, non è che se c'è la Lagarde, che non merita nemmeno il nostro rispetto, ma questo è un altro discorso, però per chi invece ci crede in queste cose, no? Come vedere una donna nei ruoli di potere cambi la percezione delle donne, non è che la presenza della Lagarde abbia cambiato la vita delle donne, le donne vengono ammazzate tanto quanto, anzi in qualche modo il potere poi e il potere patriarcale ci frega di più mettendoci queste donne in ruoli di potere, e perché viene a costituirsi quella che io nel mio libro Oltre le monoculture di genere chiamavo la zona grigia del femminismo, riprendendo la definizione di zona grigia proprio da Primo Levi. E tornando a Parinetto, appunto, mentre il carnevale è questa festa octroyée concessa dall'alto, il Sappa invece è la dimensione notturna, oscura, rivoluzionaria. E allora mi piace pensare che mentre a Viareggio si apre il carnevale, in un angolo di Viareggio si praticherà un Sappa. Bellissimo, siamo molto coinvolte, devo dirti la verità, da questo samba, e quindi ribadiamo le date, ribadiamo gli incontri. Tutti gli incontri saranno riservati chiaramente soltanto alle donne, si terranno il sabato dalle 15 alle 18 del calendario che abbiamo pubblicato, che avete pubblicato anche voi e che sarà comunque ribadito, al cantiere sociale Versiliese, che è in via Belluomini 18 a Viareggio. Quindi è terribile il nome di questa via, posso dirlo? Sì, è vero. Via Belluomini, ogni volta è un pugno nello stomaco. anche noi lo avevamo notato. Se fosse stato Mac Mahon sarebbe stato anche peggio. È andata bene così. Ecco, no, a proposito, ti ringrazio di aver rammentato e vorrei dire che tutti gli aggiornamenti che immagino voi richiamerete sono nella pagina Facebook delle Donne in Cantiere, che però attenzione, attenzione, perché se si mette in un motore di ricerca Donne in Cantiere non viene fuori questo gruppo, perché il nome, non so chi l'abbia fatto all'epoca, perché io non faccio parte del gruppo, ci collaboro, il nome della pagina Facebook è Donne in, tutto attaccato, e staccato Cantiere. Quindi anche se il gruppo si chiama Donne in Cantiere, tre parole, invece la pagina Facebook ha questo, diciamo, errore, questa mancanza di uno spazio, Donne in Cantiere. Ecco, e lì si troverà il materiale, anche ad esempio la bibliografia che le varie relatrici forniranno ad ogni incontro, perché abbiamo anche chiesto questo in modo che chi vuole approfondire Grazie, ti ringrazio per il suggerimento, perché me l'hai dato tu. Approfondire anche andando oltre quello che è stato detto quel giorno, e speriamo che di aver suscitato degli entusiasmi, avrà modo anche di confrontarsi con dei testi dell'epoca. Bene, allora ti ringraziamo tantissimo per questa esaustiva e bellissima intervista, o comunque comunicazione, o comunque come la vuoi chiamare, ma è una ha chiarito non soltanto le ragioni, gli appuntamenti, eccetera, ma ha chiarito anche la necessità di questo tipo di autoformazione, di questo tipo di incontri, di questo tipo di posizionamento e di desiderio di chiarezza e di scambio. Quindi ci vedremo prestissimo. Di pratiche anche. Anche di pratiche, certo. Certo, ci vedo. Posso fare un'ultima battuta tra sardine, sardinesse e sardinelle, pensando a quelli che occupano le piazze, quelli e quelle, perché le sardinesse sì, per me sono quelle del 25 novembre, e le sardinelle, il Friday for Future, insomma, ecco, salvo un po' le sardinelle, ma perché sono giovani e apriranno gli occhi prima o poi, però non se ne può davvero più di questa grande confusione che c'è. Esatto, quindi a prestissimo e ancora grazie. Ciao, grazie tantissime. A voi, un abbraccio, ciao.